Salva Danaio di Deborah Rosciani. Principessina, se la triste profezia si avverasse, bimba mia, non per questo morirai, ma nel sonno tu cadrai. E il tuo sonno cesserà se l'amor ti bacerà. Sia questo il più fulgido dei tuoi doni, che la speranza mai ti abbandoni. E quale miglior colonna sonora poteva introdurre e accompagnare il nostro inizio di trasmissione, il nostro argomento scelto per oggi? Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Salva Danaio. Una favola, quella della bella addormentata nel bosco, per poter arrivare a dire che sembra essere arrivato un lieto fine per una vicenda molto spinosa per molti risparmiatori italiani, la vicenda delle cosiddette polizze dormienti, vicenda già protagonista in passato di molte puntate di Salva Danaio. Ve le ricordate quelle polizze che, insieme ad altri strumenti di risparmio, non rivendicati per lungo tempo dai legittimi sottoscrittori, erano finiti in un fondo del Ministero dell'Economia perché appunto caduti in prescrizione. Allora, qual è la novità della quale parliamo oggi? Dal 13 febbraio e fino al prossimo 15 aprile, i titolari di polizze vita andate in prescrizione nel periodo tra il 1 gennaio 2007 e 29 ottobre 2008, e per questo motivo appunto la disponibilità era stata sottratta ai titolari perché erano strumenti di investimento caduti in prescrizione, ecco, i titolari di questi prodotti potranno presentare richiesta per ottenere il rimborso dei propri risparmi, per ottenere appunto la restituzione. Queste polizze erano state interessate da una legge del 2008 che aveva introdotto una scadenza biennale per la prescrizione, ma a rendere più complicata la vicenda è che questa legge aveva reso questa prescrizione retroattiva. Il governo Monti poi, con un decreto più di recente, ha previsto la possibilità di rimborso per le polizze prescritte appunto con effetto retroattivo, portando inoltre il termine di prescrizione a 10 anni, una questione che sembra molto complicata ma che in realtà in quel periodo i malcapitati avevano capito molto bene. Allora noi oggi rifacciamo il punto della situazione per chiarire le modalità per inoltrare questa domanda di rimborso. Come si fa? Entro quanto tempo appunto bisogna farlo? Che documentazione va presentata? A chi ci si deve rivolgere? Intanto ringrazio e saluto per essere con noi questa mattina l'avvocato Giulio Ascioti, responsabile Dipartimento Fondi di Solidarietà di Consap, concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SPA, è una partecipata del Ministero dell'Economia ed è appunto l'organizzazione, la società che sta gestendo, oltre a tante altre iniziative che dopo ricorderemo, anche tutta questa operazione. Avvocato Ascioti, buongiorno e benvenuto. Ci sente? Sì, sì, perfettamente. Le chiederei gentilmente di non utilizzare il viva voce perché non la sentiamo affatto, quindi se potesse prendere la cornetta per noi appunto il collegamento sarebbe sicuramente di qualità migliore. Ringrazio e saluto per essere ritornato con noi anche l'avvocato Marco Gagliardi, legale del Movimento Consumatori. Avvocato, buongiorno. Buongiorno Deborah e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ascoltatori che ci possono come sempre chiamare 800 24 00 24, il numero verde appunto per gli interventi in diretta degli amici che ci seguono da casa e che naturalmente magari sentendo questo argomento questa mattina potranno farsi anche delle domande. Intanto siete tra le persone interessate a chiedere rimborso per le cosiddette polizze dormienti perché non avete più potuto rivendicare presso il vostro intermediario queste somme, perché queste polizze, questi strumenti sono caduti in prescrizione per tutta una serie di fatti che possono essere intervenuti, magari perché erano polizze intestate ad un congiunto che nel frattempo è deceduto, polizze delle quali non si conosceva magari l'esistenza e quindi si è scoperta l'esistenza solo in tempi successivi, quando ormai era troppo tardi per poterle riscattare. Allora sapete che per alcuni di voi c'è la possibilità di chiedere il rimborso dei soldi che nel frattempo sono finiti al Ministero dell'Economia, peraltro in un fondo destinato a risarcire le vittime dei crack finanziari mai entrato in funzione, se non mi ricordo male, ma insomma poi si crea un fondo per tutelare le vittime dei crack finanziari, si creano vittime di altre circostanze, per cui è bene anche fare chiarezza su tutto questo. Se non ci volete chiamare, ci potete scrivere al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Potete interagire con noi su Facebook salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. Adesso la borsa. Borsa un po' indecisa in Europa, invece era molto decisa ieri Wall Street, che ha chiuso riportandosi sui massimi da 5 anni a questa parte, grazie alle notizie di fusioni ed acquisizioni che stanno galvanizzando il mercato americano. Ieri è stata diffusa questa stima: da inizio anno sono state annunciate operazioni di merger and acquisition, quindi appunto fusioni e operazioni di integrazione, per oltre 160 miliardi di dollari. Quindi corporate America, l'industria americana si è rimessa in moto, il mercato ne beneficia. Bene anche Tokyo, che stamattina ha guadagnato lo 0,84%, e pensate che la borsa giapponese ha ritoccato i massimi che non vedeva dal settembre 2008, mese, lo ricorderete tutti e lo ricordiamo tutti, del fallimento della banca d'affari americana Lehman Brothers. Vediamo un po' l'Europa stamattina, che pure viaggia sui massimi da un po', perché per esempio Francoforte è sui livelli che non vedeva dal 2007 e li sta consolidando in questo periodo, più 0,21% sul DAX. Londra guadagna lo 0,43%, Parigi meno 0,11% ed è negativa anche Milano, meno 0,33%. Vediamo un po' alcuni temi di Piazza Affari. Telecom meno 2,73%. Per Telecom c'è un po' di delusione del mercato, perché il gruppo ha deciso di rinunciare all'emissione di un'obbligazione ibrida per riorganizzare di nuovo la struttura del debito. Il titolo quindi ne risulta penalizzato, ma c'è ancora, come sapete, il caso politico che si è aperto per quello che riguarda la cessione di Telecom Italia Media, di conseguenza della 7, e questo appunto sta molto appassionando la campagna elettorale, che fa molta difficoltà a quanto pare a trovare temi concreti. Giudizio naturalmente del tutto personale, ci si concentra su altro. In ogni caso anche Mediaset oggi perde il 2,51%, e poi frena anche la Popolare di Milano, che da settimane correva, perché il gruppo, come sapete, ha fatto sapere che sta procedendo con lo studio di fattibilità per la riorganizzazione della banca in SPA. Dopo la corsa degli ultimi giorni, oggi qualche operatore incassa e il titolo perde il 2,32%. E poi anche il Banco Popolare meno 1,67, Unicredit meno 1,43. In luce invece abbiamo A2A più 2,83%, Parmalat più 2, Lottomatica più 1,35%. Direi che per i casi di borsa ci possiamo fermare qua. Andiamo al tema di oggi. Allora, ve le ricordate le polizze dormienti? E tu dormi. Dopo anni di attesa, non senza dubbi, proteste e casi particolari da risolvere, sembra essere arrivato un lieto fine per la vicenda delle cosiddette polizze dormienti. Si trattava di quelle somme che, se non reclamate da un beneficiario entro un certo lasso di tempo dalla morte della persona assicurata, venivano devolute dalla compagnia a un fondo dedicato all'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie, istituito da una legge del 2005. Una persona stipulava quindi un'assicurazione sulla propria vita, ne pagava il premio per anni, ma la somma andava persa se dopo il suo decesso nessun figlio, parente o congiunto ne richiedeva entro precise scadenze la liquidazione. E non è mancata negli ultimi anni una certa confusione, dovuta al susseguirsi di diverse modifiche alle norme che regolano questi termini di prescrizione. In origine il margine per la prescrizione era fissato ad un solo anno. Nel 2008 una legge dell'allora ministro Tremonti ha raddoppiato il periodo di prescrizione rendendolo biennale, ma ha previsto al tempo stesso un effetto retroattivo al 1 gennaio 2006. Molti risparmiatori, in particolare gli eredi di possessori di polizze deceduti tra il 2005 e il 2008, si sono così trovati nella condizione di non poter incassare le somme perché automaticamente prescritte. Il governo Monti è intervenuto, portando il margine a 10 anni, e aprendo la possibilità per i titolari delle polizze vita interessate dall'introduzione della norma retroattiva, quindi andata in prescrizione tra il 1 gennaio 2007 e il 29 ottobre 2008, di presentare richiesta per ottenere il rimborso dei propri risparmi. Attenzione alle scadenze, però. Per inoltrare la domanda c'è tempo solo fino al prossimo 15 aprile. E naturalmente tra tutti i complimenti a Salva Danaio che potevano arrivare questa mattina, non bravi per aver scelto questo tema, non bravi per come trattate gli argomenti, ma bravi per le colonne sonore che scegliete. Quindi arrivano anche a Marco Lombardo le gratificazioni per questo. Noi però ritorniamo naturalmente sul nostro argomento, che invece è molto delicato e per la verità aveva fatto indispettire molte persone nell'epoca in cui è scoppiato, momento in cui per la verità anche lo Stato insomma era in difficoltà e trovava ogni modo possibile per far cassa, e c'era stato appunto questo frangente in cui il Ministero dell'Economia aveva pensato di mettere le mani, ovviamente poi disciplinando tutta l'operazione in maniera molto dettagliata, su questo denaro che comunque nessuno rivendicava, per cui questo era quanto era successo. Detto ciò, avvocato Ascioti, la Consap, che è appunto la società del Ministero dell'Economia, concessionaria dei servizi assicurativi pubblici, poi ricorderemo tutte le altre vostre iniziative ed attività, le volevo chiedere subito un chiarimento, perché ho letto su un po' di comunicati in questi giorni che ritornavano appunto su questa vicenda, che complessivamente sono disponibili presso il Ministero dell'Economia quasi 8 milioni di euro che dovrebbero teoricamente risarcire appunto tutti i titolari di queste polizze dormienti che sono già finite, le cui somme sono già transitate presso il fondo di tutela appunto per le vittime dei crack, quindi sono già al Ministero dell'Economia, e che potranno appunto risvegliare e vedersi restituite queste somme. È una cifra attendibile, dottor Ascioti, oppure è così un'illazione di stampa non confermata? No, è una cifra messa appositamente a disposizione per questa funzione. La differenza, diciamo, con i rapporti dormienti, chiamiamoli tradizionali, è che mentre il rimborso di quei rapporti avviene con prelievo diretto dal fondo gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, quindi sono le stesse somme che sono state in precedenza trasferite al fondo e poi dopo la conclusione della procedura di risveglio vengono restituite agli aventi diritto, questo è uno stanziamento specifico che nulla a che vedere con le somme che ormai sono definitivamente affluite al fondo di solidarietà per le vittime dei Ecco, malviventi. Questo è importante, perché pensavo appunto che invece fossero le cifre corrispondenti alle polizze vita finite lì, che adesso dovendo essere restituite corrispondevano esattamente alla cifra che doveva tornare indietro. Quindi è uno stanziamento apposito del Ministero dell'Economia. Stanziamento specifico limitato a questa cifra, esattamente 7.600.000 euro, esaurito il quale, ove non tutte le richieste di rimborso potessero essere indennizzate interamente, verrebbero indennizzate in proporzione. Come mai è stata individuata allora questa cifra, pur non conoscendo il numero esatto dei titolari delle polizze dei quali è stata trattenuta la somma riscattabile? Guardi, è stata una cifra individuata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, in un decreto del 28 maggio 2010, nell'ambito di un importo complessivo di quasi 39 milioni di euro è stata individuata questa cifra di 7 milioni e 6 per questa funzione, probabilmente in virtù di analisi prospettiche su quello che potrebbe essere il volume. Certo, quindi in realtà dovrete fare un punto della situazione il 15 aprile, quando scadrà il termine ultimo per la presentazione delle domande per la restituzione. Se complessivamente l'ammontare dei richiedenti superasse questi 7.600.000 euro, avvocato Ascioti, si procederà ad una spartizione proporzionale, quindi oppure varrà il principio del chi arriva per primo viene accontentato integralmente? No, verrà comunque adottato un criterio strettamente proporzionale, in relazione a un dato di cui non avremo cognizione il 15 aprile, ma ne avremo cognizione un po' più tardi, cioè all'esito dell'istruttoria di tutte le domande pervenute entro il 15 aprile. Infatti, ovviamente. Poi lo spieghiamo il motivo, perché magari se c'è qualcuno che ha presentato una documentazione incompleta, voi in realtà gli date anche modo e tempo di completare questa istruttoria, questa documentazione, quindi avere la titolarità piena appunto del diritto di essere non risarcito, di vedersi appunto restituite queste somme. Avvocato Gagliardi, Movimento Consumatori, grande battaglia nel periodo in cui ci fu questa grande confusione. confusione fra la revisione dei termini di prescrizione, no, per questi strumenti di investimento. Io faccio addirittura fatica a ricordarla, a ripeterla, perché fu talmente complicata in un momento nella individuazione del termine annuale, biennale o decennale di prescrizione appunto di questi strumenti di investimento non rivendicati, che oggi a ricordarla appunto mi fa male la testa. Detto questo, ci può aiutare lei a capire le motivazioni per cui adesso sono i titolari di polizze vita andati in prescrizione fra il 1 gennaio 2007 e 29 ottobre 2008 a poter chiedere appunto la restituzione a partire dal 13 febbraio? Perché sono stati individuati solo questi risparmiatori? Ma allora, nella successione appunto numerosa di leggi che hanno modificato il termine di prescrizione, non dimentichiamo che con la legge di Tremonti del 2008 era stata prevista in modo retroattivo la possibilità, anzi l'obbligo, delle compagnie di devolvere al fondo le polizze dormienti, per cui chi rientra in quella fascia chi ha subito la prescrizione in quel periodo di tempo, per il fatto che la legge era retroattiva, ha subito ingiustamente le conseguenze di quella riforma. E perché il termine di prescrizione deve essere di 10 anni? Per un aspetto importante, stiamo parlando di polizze che normalmente rimangono in un cassetto dopo il decesso, vengono scoperte spesso molto dopo rispetto al decesso dell'assicurato, per cui anche per questioni psicologiche il termine originariamente previsto di un anno era troppo ristretto. Un po' severo, sì, un po' rigido. Quindi cosa vuol dire? Che già nel 2000 l'ISVAP, dietro numerose sollecitazioni esposti, aveva consigliato in sostanza alle compagnie di non eccepire la prescrizione così breve di un anno, tant'è che alcune compagnie, come ad esempio in particolare Poste Vita, avevano introdotto delle clausole in cui dicevano che la compagnia rinunciava a far valere la prescrizione e consentiva di poter ottenere la liquidazione della polizza fino a 10 anni. Quindi quello che finalmente è stato ottenuto ora, cioè un termine di 10 anni per ottenere la liquidazione, è più adeguato rispetto alle esigenze e quindi alla situazione. Benissimo, allora adesso andiamo a vedere, direi subito, le modalità con cui questi soldi possono essere richiesti. Naturalmente qua stamattina, avvocato Ascioti, chiedo anche a lei di aiutarmi in questa raccomandazione, non è che tutti possono svegliarsi e inondare la Consap di documentazione con delle richieste appunto non lecite, non pertinenti, di restituzione di questo denaro. Bisogna individuare intanto molto bene la propria posizione e qua chiaramente magari chi è incappato in quel periodo, in questa vicenda, probabilmente se lo ricorderà, e speriamo appunto che bisognerà fare anche un po' di campagna informativa capillare, avvocato Ascioti, no? Per raggiungere queste persone. Assolutamente sì, innanzitutto la ringrazio per la sensibilità, perché in effetti sarebbe un problema, diciamo, gestionale se tutti i titolari di polizze non riscosse ci facessero domanda. Ovviamente siamo pronti ad accoglierlo. Comunque, la prima cosa a cui fare attenzione è questa, cioè il periodo, che è stato già ripetuto più volte, di valenza di queste disposizioni. Si tratta di polizze prescritte tra il 1 gennaio 2007 e il 28 ottobre 2008, ovvero polizze per le quali l'evento assicurato o la scadenza della polizza si sia verificata successivamente al 1 gennaio 2006 e pertanto, in base alla vecchia normativa, il termine prescrizionale sarebbe caduto dal 1 gennaio 2007. Perché valeva l'annualità? Perché valeva l'annualità. La domanda va rivolta alla Consap, può essere inviata sia con raccomandata, con ricevuta di ritorno, sia con plico a mano, sia mediante posta elettronica certificata. Ci sono comunque tutte le istruzioni sul sito internet Consap, dove è stata aperta un'apposita casella proprio per la regolamentazione di queste funzioni. Alcuni documenti vanno trasmessi rigorosamente in originale. Il documento essenziale è costituito dall'attestazione dell'intermediario assicurativo, con il quale l'intermediario stesso dichiari che soprattutto diciamo, confermi che la polizza sia pervenuta a scadenza nel periodo interessato, confermi l'intervenuta prescrizione, dichiari di aver trasferito al fondo del Ministero dell'Economia l'importo relativo al capitale assicurato e che per effetto di questo trasferimento ha rifiutato la prestazione, si è trovato costretto a rifiutare la prestazione assicurativa in favore del soggetto beneficiario della polizza. Ovviamente nelle ipotesi che accennava lei, diffusissime, di assicurato deceduto e quindi diciamo di beneficiario erede e così via, va dichiarato da parte dell'istante attraverso un'autocertificazione che il titolare della polizza era deceduto e che lui è l'unico erede o un erede abilitato a gestire questa richiesta. Certo, quindi insomma la pratica va istruita con un po' di attenzione, naturalmente poi ripeto c'è un margine di tempo che la Consab rende disponibile qualora la documentazione fosse incompleta, però chiaramente se il lavoro lo facciamo una volta è meglio, non ci pensiamo più, anche perché poi naturalmente tutte le pratiche che arriveranno alla Consab verranno esaminate in ordine cronologico, per cui se vanno bene almeno davvero non ci si pensa più. E tu l'abbinamento Vasco Rossi con l'argomento di oggi è veramente ardito, ma noi ci proviamo a fare di tutto per rendere un po' più divertenti le nostre trasmissioni anche quando toccano temi un po' complicati come quello di oggi. Per la verità lo hanno capito perfettamente le persone che ci sono finite dentro qualche anno fa. Oggi dobbiamo risvegliare questo tema esattamente come dobbiamo fare per le polizze delle quali parliamo, perché sono definite dormienti. Allora, qual è la questione? Una questione che ha tenuto banco qualche anno fa, della quale non si parlava più da un po', la notizia alla quale facciamo riferimento, che il decreto sviluppo approvato lo scorso ottobre ha riportato da 2 a 10 anni il termine di prescrizione delle polizze vita dormienti. Questo termine nel 2008 era stato ridotto appunto a 2 anni, un termine che però evidentemente è del tutto insufficiente per garantire la possibilità di riscatto della polizza, soprattutto quando si verifica il decesso per esempio dell'intestatario. Nel 2008 c'era stata una legge, la legge 166, che aveva introdotto appunto questa prescrizione biennale per le polizze, prima era addirittura annuale. E per le persone che erano cadute nell'ambito della prescrizione annuale, e questa si era verificata tra il 1 gennaio 2007 e il 29 ottobre del 2008, oggi c'è la possibilità di andare a chiedere appunto il rimborso delle somme che erano state loro sottratte, appunto perché confluite in un fondo del Ministero dell'Economia. Oggi per questa restituzione il Ministero dell'Economia mette a disposizione quasi 8 milioni di euro, però attenzione, perché la domanda per la restituzione si può fare dal 13 febbraio fino alle 15 aprile, quindi è da pochi giorni iniziata la appunto pratica per poter fare richiesta e avete tempo fino a metà aprile. Questa mattina con noi chi gestisce l'operazione, la Consap, con noi l'avvocato Giulio Ascioti, responsabile Dipartimento Fondi di Solidarietà di questa organizzazione, l'avvocato Marco Gagliardi, legale Movimento Consumatori. Peraltro, avvocato Ascioti, avete già avuto modo di verificare se qualche domanda è già arrivata? Guardi, veramente poche e tra l'altro fuori dai termini previsti per il rimborso. Perché non sono quelle polizze che ricadono nella fattispecie per la quale è previsto? Perché non ricadono temporalmente, fattispecie. Ce n'è arrivata una, cito a memoria, che è prescritta alla fine del 2009, quindi fuori di oltre un anno dai termini. E questo è un po' quello che sta accadendo anche questa mattina a Salvadanaio, che ci stanno ponendo delle domande che non sono esattamente attinenti al tema di oggi, però in ogni caso speriamo di sollevare l'attenzione nei confronti invece di chi è direttamente interessato. Chiamateci all'800 24 00 24, scriveteci al 349 238 6666. Allora sentiamo una domanda di Giuseppe dalla provincia di Ragusa, che già così a occhio vedo che non è direttamente interessato alla partita della quale parliamo stamattina, però vediamo se riusciamo ad aiutarlo ugualmente. Giuseppe, buongiorno. Sì. Pronto, buongiorno, saluto tutti gli ascoltatori. Io prendo spunto dalla trasmissione, mi sono posto questa domanda. Posso recuperare le somme versate nel primo anno ed esattamente le prime 3 rate È una polizza fatta nell'88, febbraio 88, la durata di 25 anni. Quindi se fosse andato tutto bene quest'anno avrebbe dovuto terminare i pagamenti, Giuseppe? Esatto, ma siccome lavoravo in quel periodo a Bologna... Insomma, altre necessità, ovvio, ovvio, naturalmente. Giuseppe, la ringrazio. Proviamo a capire allora, avvocato Gagliardi, le chiedo anche di fare il consulente assicurativo questa mattina. Ecco, però ci sono molte situazioni ricorrenti di questo tipo, no? Chi magari con le migliori intenzioni possibili vorrebbe costruirsi un piano di risparmio, apre una polizza, la sottoscrive con il proprio consulente, poi dopo un po' di versamenti si rende conto che questo impegno non è in grado di rispettarlo. In questi casi che cosa succede? Innanzitutto è necessario leggere attentamente il prospetto informativo della polizza. Normalmente in caso di riscatto anticipato alla scadenza ci sono delle forti penalizzazioni per l'assicurato, per cui conviene portarla alla scadenza. Quindi questa, diciamo, è la regola in generale, però comunque è necessario appunto leggere il prospetto informativo e consultare il proprio agente. Ecco, però lui quest'anno teoricamente come dire, si chiude il contratto con la compagnia di assicurazione, le tre rate potrebbero teoricamente essergli rimborsate, no? Ma bisogna vedere se non era previsto un obbligo di versare le rate fino alla scadenza del contratto. Sì, bisognerebbe essere un po' più, bisognerebbe avere qualche dettaglio in più, Giuseppe, però in ogni caso non ricade questa situazione nella fattispecie delle dormienti, delle quali parliamo questa mattina. Francesca su Twitter invece ci chiede: ma se un parente è deceduto, come si fa a sapere se c'è una polizza dormiente? Il tema, Francesca, è proprio quello, che questi documenti escono magari quando si fa un po' di polizia nei documenti del congiunto che è mancato, e si possono scoprire anche avvocato Ascioti, libretti di risparmio e tanti altri strumenti di investimento magari sottoscritti proprio per un giorno così tutelare magari i familiari che rimangono, evidentemente. E però ecco, qualche volta può succedere che il diretto interessato non lo faccia sapere, è proprio per questo motivo che è scoppiata qualche anno fa questa situazione. Sì, è esattamente così, ha già detto tutto lei, in effetti, soprattutto per quello che riguarda i libretti di risparmio, ma io aggiungerei anche degli assegni e circolari non incassati dal beneficiario, dei quali l'ordinante non è a conoscenza di questa circostanza. Quindi ci sono queste ipotesi, ci certo. Mancherebbe altro. Sì, volevo aggiungere altro? No, io sì, una cosa però, ritorniamo un attimo al discorso delle polizze, una raccomandazione che colgo la sede che mi sembra estremamente opportuna per fare. Noi abbiamo ricevuto antecedentemente alla iniziativa di rimborso alcune domande di rimborso di polizze. A queste domande è stato o data risposta negativa o per le ultime arrivate non è stata data da parte di Consap alcuna risposta, proprio perché si sapeva che questa materia sarebbe stata di lì a breve regolata diversamente. Quello che voglio raccomandare a questi signori che avessero fatto queste istanze di riformulare l'istanza seguendo dettagliatamente le istruzioni apposite sul nostro sito internet. L'istanza presentata prima della conclusione dell'iter normativo e procedurale che oggi consente il rimborso di queste polizze non ha valore, non può essere richiamata in causa: ah, io vi avevo già fatto la domanda 6 mesi fa. No, l'istanza deve essere rinnovata seguendo dettagliatamente tutte le istruzioni che compaiono sul sito. Benissimo, speriamo allora che questa informativa sia arrivata a tutti. Intanto ho sotto gli occhi, Anno, volevamo ricordarlo, me lo segnalava adesso Marco Lombardo, che se volete sul nostro profilo Facebook abbiamo pubblicato l'avviso di presentazione della Consap, abbiamo pubblicato anche il facsimile della domanda di rimborso delle cosiddette appunto polizze dormienti, quindi potete già vedere tutte le informazioni che è necessario mettere appunto su questo documento, così ve ne potete fare già un'idea, ma soprattutto tutta la documentazione che è necessario allegare alla domanda, perché c'è insomma da metterci insieme i documenti di riconoscimento, il codice fiscale, la copia della polizza vita, ce lo diceva prima l'avvocato Ascioti, e poi l'attestazione specifica rilasciata dall'intermediario interessato, quindi dalla compagnia, e poi chiaramente bisogna fare attenzione anche al fatto che se non si è l'intestatario il sottoscrittore originario appunto della polizza, bisogna anche istruire bene la domanda con l'indicazione se il richiedente è l'erede del beneficiario indicato in polizza e quant'altro, per cui è tutto un po' complicato, però insomma speriamo di potervi rendere la vita più facile anche con queste informazioni di questa mattina. 800 24 00 24 il numero verde per le vostre domande. Avvocata Scioti, in molti ci chiedono, Gagliardi adesso coinvolgo anche lei naturalmente, però ho la Consap, appunto mi piacerebbe sapere anche altre cose appunto dall'organismo del Ministero dell'Economia, se ha qualche notizia invece sui conti dormienti, a che punto è quella vicenda, perché anche lì molti fondi di persone che avevano questi rapporti con gli intermediari sono transitati al Ministero dell'Economia. Qua secondo lei si riaprirà la partita per chi vuole chiedere una restituzione o è una situazione perennemente aperta? Mi scusi, è una situazione perennemente aperta e diciamo in regolare svolgimento. Non esistono, diciamo, termini in questo caso per quanto riguarda i rapporti dormienti, non esistono archi di tempo di valenza di questa funzione. La funzione è sempre aperta, noi via via che riceviamo le istanze, che qui sono veramente numerose, stiamo parlando di volumi tra le 10 e le 12.000 istanze l'anno, via via le istruiamo seguendo sempre l'ordine cronologico, chiediamo laddove manca la documentazione integrativa e dopodiché al verificare di tutti i presupposti procediamo al rimborso. Quindi l'ascoltatore che chiede, esatto, ha un libretto di risparmio in cui non fa più movimenti da 30 anni, può venirlo a se questa somma fosse stata appunto fosse stata già girata al Ministero dell'Economia da parte dell'intermediario dell'ascoltatore, lui può risvegliare questo rapporto? Assolutamente sì, è ovvio che è onere dell'ascoltatore in questo caso rivolgersi all'intermediario che ha emesso questo libretto per avere non solo la conferma ma anche in quel caso l'attestazione abbastanza simile a quella di cui abbiamo parlato prima circa le polizze, l'attestazione che l'intermediario stesso ha devoluto il valore di quel libretto al fondo del Ministero dell'Economia, perché poi ovviamente noi prima di procedere al rimborso dobbiamo trovare il riscontro del rapporto con gli elenchi dei versamenti effettuati al Ministero. E nel frattempo, proprio sul rush finale della sua risposta, arriva una domanda di Giovanni da Salerno, gli chiedo un minuto di pazienza, probabilmente dovremmo ribadire questi ultimi concetti, ma lo faremo volentieri tra poco. Sì, vabbè, allora qua stamattina proprio si sciambola, Carnevale è passato, Marco Lombardo, qua non è che possiamo essere anche così irrispettosi dei nostri ascoltatori che ormai in realtà ascoltano Salvadanaio per capire quali colonne sonore sceglieremo. Allora, tra l'altro, adesso invece ritorniamo un po' ai temi seri di questa mattina, le polizze dormienti e gli strumenti di investimento caduti in prescrizione tra il gennaio 2007 e il 29 ottobre del 2008, oggi possono essere richiesti in termini di restituzione appunto al Ministero dell'Economia, alla Consap, attraverso tutta una procedura che abbiamo già spiegato questa mattina. Stavo riguardando alcune considerazioni che arrivano dagli ascoltatori, vedo che appunto molti riguardano soprattutto i rapporti dormienti di altro tipo. Detto questo, però, tornando alle polizze vita, avvocato Marco Gagliardi del Movimento Consumatori, vogliamo fare un po', proprio come fanno le associazioni dei consumatori, l'ABC per verificare se si è nel diritto di fare questa richiesta adesso, perché non vorrei esattamente come fosse sfuggita al periodo la necessità di essere molto veloci nel chiedere il rimborso perché c'era la prescrizione annuale, non vorrei che adesso in molti perdessero questa opportunità. Come si fa a raggiungere il diretto interessato? Come vi state muovendo come associazione dei consumatori? No, noi certamente stiamo cercando di rendere più nota la questione e diffonderla il più possibile. Lo stesso dovrà avvenire da parte delle compagnie per agevolare i propri ex clienti o attuali clienti. Poi le maglie sono abbastanza strette, per cui la maggior parte dei titolari di queste polizze dormienti rimarranno fuori. Questa è un'altra questione che dovremmo cercare di affrontare, per cui il capitolo secondo noi non è ancora chiuso, nel senso che perché la cifra disponibile è poca, dice lei? Non soltanto, perché comunque se si calcolano 7,6 milioni sarebbero 760 posizioni per una media di 10.000 euro l'una, per cui non è un numero secondo me significativo, per cui ci saranno molti fuori anche per la cifra che mi è stata messa a disposizione, ma non solo, soprattutto perché le prescrizioni sono maturate soprattutto dopo il termine del 29/10/2008. Quindi in questi casi c'è un problema di fondo, per cui vediamo che ci sono termini di prescrizione diversi, prima uno, poi due, adesso 10. Nel Cresci Italia l'obiettivo della riforma era quello di superare le disparità di trattamento tra i titolari delle polizze, solo con una prescrizione di 10 anni retroattiva sarebbe stato ottenuto questo risultato, quindi sarebbe opportuna ancora una modifica di questo articolo. Insomma, guardi, vedremo un po' che cosa succederà intanto a Roma a partire dalla prossima settimana e con che tipo di gerarchia anche verranno presi in esame i problemi. Forse questo non sarà, immagino, una priorità, però magari, come spesso è accaduto in passato, so che le associazioni dei consumatori sono molto anche efficaci nelle loro azioni di sollecitazione nella trattazione appunto di certi argomenti, e quindi vedremo se ci saranno anche delle novità. Intanto speriamo che tutti gli interessati che hanno diritto a questo rimborso, oltre alle loro polizze dormienti, si sveglino naturalmente anche per fare la domanda, la istruiscano molto nel dettaglio. Chi sentiamo adesso? Sentiamo Giovanni da Salerno, perché lo avevamo in sospeso da prima, all'800240024. Giovanni, buongiorno. Buongiorno cara. Buongiorno, ci dica. Senta, io ho trovato un libretto del Banco di Napoli. Sì. L'ultima movimentazione è stata fatta nel 2008. Di chi era? Di un suo parente, Giovanni? O era suo? Se l'era dimenticato così? Me lo sono dimenticato. Con 10 milioni sopra. Ora, l'ho ritrovato. È possibile, perché in banca mi dissero, l'ho trovato un mesetto fa, che non c'era più niente da fare. Infatti Giovanni, io la ringrazio per averci detto questo aspetto, perché avvocato Ascioti della Consab, come lei sa, qualche intermediario un pochino non fa proprio un'operazione di informazione corretta e dice: guarda, ormai non puoi più fare niente, invece dovrebbe incaricarsi di assistere il cliente in maniera un po' più accurata forse su questi casi. Direi assolutamente sì, a parte che se questo libretto, l'ultima movimentazione l'ha registrata nel 2008, come dice il signor Giovanni. No, nel 78. Dunque, lui ha trovato un libretto, Giovanni c'è ancora con noi, eccolo qua Giovanni, mi scusi che mi sono persa, lei lo ha aperto nel 78 con 10 milioni, quand'è che l'ha movimentato? No, l'ho aperto parecchio tempo prima. L'ultima volta che l'ha movimentato è stato nel 78, ecco. Movimentato nell'88. Grazie Giovanni, avvocato Ascioti, eccoci qua, abbiamo chiarito. Sì, allora va bene, sì, potrebbe essere effettivamente un libretto dormiente, a questo punto però è anche obbligo dell'intermediario fornire questa attestazione di devoluzione al fondo. Certo. Quindi il signor Giovanni può benissimo pretenderla dall'intermediario, non è una facoltà, è un obbligo. È un obbligo. Quindi guardi Giovanni, poi magari se vuole ci scriva e le diamo le indicazioni su dove trovare tutte le informazioni sul sito della Consap, lei le stampa, va in banca e così si presenta con questa certificazione che le dà il diritto di chiedere questa restituzione. Poi non ce l'avrà dall'oggi al domani, chiaramente tutto deve transitare a Roma, però sicuramente potrà rientrare nella legittima proprietà appunto del suo denaro. Chi sentiamo ancora pochi ascoltatori. Insomma, in molti ci stanno chiedendo, per la verità, cosa può succedere con prodotti di risparmio e di investimento che non sono assolutamente dormienti, ma che magari appunto non sono alimentati con regolarità, non ricadono appunto nella fattispecie del caso di cui parliamo questa mattina. Di fatto noi oggi parliamo appunto di un caso limitato e circoscritto. Le ultime raccomandazioni che possiamo fornire prima dei saluti, avvocato Gagliardi, Movimento Consumatori? Ma è che di tenere viva la speranza e cercare di ottenere la liquidazione delle polizze anche nel caso in cui non sia possibile ottenere il rimborso dal fondo, verificando caso per caso se ci sono delle responsabilità o delle anomalie contrattuali e eventualmente attivando i reclami o cause nei confronti delle compagnie. Certo, avvocato Ascioti, Consap, anche da parte sua le chiedo un ultimo supporto per i nostri ascoltatori. Guardi, lo spunto me lo dà l'ultima telefonata. Il consiglio che posso dare, siccome sul sito è disponibile, si può scaricare e stampare proprio il testo di questa attestazione da rilasciarsi da parte dell'intermediario, il cittadino può benissimo portarlo tranquillamente dal suo intermediario, in modo che si trova già, diciamo, il piatto pronto. È una dichiarazione semplicemente da riempire con i dati indicativi del rapporto di cui si sta parlando. Molto ecco. Bene. Grazie a tutti, grazie all'avvocato Marco Gagliardi, all'avvocato Giulio Ascioti per essere stati con noi, a Marco Lombardo per l'accompagnamento musicale, a Gianmarco Ferronato per l'assistenza tecnica. Noi di Salvadanaio naturalmente torniamo domani, e se non avete ancora ben chiara la dinamica della richiesta di restituzione di questo vostro denaro, scriveteci che ve la indicheremo di nuovo. A tutti buona giornata, da Deborah Rosciani. Salvadanaio.